in primo piano. La rassegna stampa parte però dalle aperture che sono dedicate principalmente alla vicenda, insomma, della bomba contro i magistrati, contro la procura di Reggio Calabria. Una bomba contro i magistrati all'apertura del Corriere della Sera, bomba alla procura generale, l'Ndrangheta minaccia i PM per Repubblica, Ndrangheta bomba al tribunale per Il Messaggero. Così come Il Giorno, o meglio il Quotidiano Nazionale, SOS Kamikaze, ambasciate chiuse, invece è l'apertura appunto dedicata alla vicenda internazionale. Su questo si dedica anche La Stampa, Yemen, ambasciate sotto tiro. Dunque, diciamo, queste due vicende in primo piano. C'è chi punta sulla politica, Il Giornale, lo vedremo dopo, il titolo è interessante. Ve lo anticipo solo, ma insomma si riparte da lì, anno nuovo, vita vecchia. Il Giornale continua la sua campagna contro Fini. Pensate un po' al titolo, Fini come Di Pietro. Questo è il titolo del Giornale di oggi. Poi vedremo perché secondo il Giornale di Vittorio Feltri. Come detto, c'è grande preoccupazione per questo ordigno che c'è stato nella notte scorsa, non l'ultima, tra sabato e domenica a Reggio Calabria. Per questo ordigno trovato davanti alla Procura Generale, un messaggio per ammorbidire i processi e le confische, così scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, un avvertimento per fermare proprio le confische dei beni. L'avvertimento, scrive Fiorenza Sarzanini, riguarderebbe una serie di processi ormai giunti in appello, ma anche alcune decisioni imminenti che riguardano beni e proprietà dell''Ndrangheta. Perché è proprio la Procura Generale a decidere delle confische di soldi e immobili rintracciati durante le indagini. Infatti il Procuratore Generale, di cui è tratteggiato qualcosa sul Corriere della Sera, Salvatore Di Landro, è il Procuratore Generale magistrato dal 72, giudicato una persona molto schiva, molto riservata, mai una forzatura nelle sentenze, grande rispetto per le difese, cordiale con gli imputati, è colui che decide peraltro anche delle confische dei beni e dunque il tema, come dire, economico, la parte economica molto molto sensibile per la criminalità organizzata, tanto che Repubblica intervista lo stesso procuratore generale, un'intervista che trovate a pagina 2 di Enrico Bellavia. Qui le cosche si spartiscono ogni metro quadrato, ma ora hanno capito che i giudici non fanno sconti. Parla appunto Salvatore Di Landro, che dice: nessun dubbio sulla matrice dell'attentato, l'ordigno è stato piazzato in pieno centro, qui hanno sede gli uffici della Procura Generale del Giudice di Pace. Qui ci occupiamo essenzialmente di due cose, e per l'appunto spiega, dei processi in grado d'appello e delle confische dei beni. Ed è su questi due aspetti ovviamente che ci si deve orientare. Riguardo alla pervasività dell''Ndrangheta in Calabria, ma non solo, dice Salvatore Di Landro: chi comanda a Reggio, le cosche tradizionali si spartiscono il territorio con una capillarità impressionante. Qualche giorno fa un mio collaboratore, passando per un viale, è stato in grado di indicarmi l'albero che segna il confine della giurisdizione tra due clan. Questa, insomma, la situazione. Oggi ci sarà un primo vertice con il sottosegretario all'interno Nitto Palma, che è atteso a Reggio Calabria, lui che peraltro è anche un ex magistrato della direzione antimafia. Io vorrei saltare subito all'altro tema della politica, perché non solo perché è il nostro sondaggio, ma perché ci sono molti commenti interessanti. Il tema del giorno, io un po' l'ho anticipato nel sondaggio, ma il tema del giorno è sempre lì, a parte le riforme, queste chiacchiere sulle riforme, la vicenda dell'Italia dei Valori, riforme Di Pietro contro Napolitano. Di Pietro ieri, in un suo appunto sul suo blog, ha criticato il capo dello Stato e ora pare che aumenti all'interno del PD una sorta di frondo, comunque una sorta di persone, di personalità che dicono ora basta, così Di Pietro fa un favore a Berlusconi. Tra l'altro il tema proprio del nostro sondaggio legato a quello che ha detto De Magistris, vale a dire mandiamo in esilio Berlusconi, magari mandandola alle Cayman con un volo di Stato con sopra Picella e qualche bella fanciulla, detto più o meno così, in cambio gli garantiamo un'immunità, insomma, senza problemi giudiziari. è un po' anche l'editoriale, il tema dell'editoriale che troviamo in, sul Corriere della Sera. Paolo Franchi mette insieme le due cose, in realtà, De Magistris e Di Pietro e l'Italia dei Valori. Ogni giorno ha la sua croce, scrive Franchi. Sabato ha provveduto con ampio e prevedibile seguito a indignate reazioni Luigi De Magistris, proponendo senza trucco e senza inganno un suo personalissimo lodo per voltare pagina. Il Cavaliere lasci indisturbato l'Italia, magari con Apicella, un'avvenente fanciulla, e non se ne parli più. Ieri ci ha pensato, suscitando anche lui come da copione una valanga di polemiche, Antonio Di Pietro, che non volendo lasciare la scena il collega ha fatto ricorso a un classico del suo repertorio, l'attacco al capo dello Stato. Mestiere vorrebbe forse che in una simile circostanza si commentassero le affermazioni di De Magistris e di Di Pietro, ci si interrogasse ancora una volta sulla cultura politica istituzionale, si fa per dire, a cui si ispirano, si indagasse sulle preoccupazioni che possono provocare in un PD che si rifiuta la legge ad persona, ma per Berlusconi non ipotizza certo l'esilio. Il fatto è però, scrive Paolo Franchi, che basta e avanza la nuda cronaca perché le parole dell'aspirante leader e quelle del leader in carica dell'Italia dei Valori si commentano in tutta evidenza da sole. E il fatto che con ogni probabilità buona parte degli elettori dell'Italia dei Valori le condividano può preoccupare e preoccupa, certo, e meriterebbe l'apertura di una battaglia politica e culturale ben più profonda e appassionata di quella condotta sinora. Insomma, Paolo Franchi molto critico, tanto che c'è un'intervista a Luciano Cavalli, un sociologo esperto di leadership, che addirittura tratteggia quello che secondo lui ci sarebbe sotto traccia in questo alzare i toni nell'Italia dei Valori. È una lotta di potere con De Magistris, cioè tra Di Pietro e De Magistris, ma vincerà lui Di Pietro. Insomma, il professor Cavalli al Corriere della Sera parla di gelosia, invidia, l'Italia dei Valori che è nata col marchio del giustizialismo, dell'antiberlusconismo, altri argomenti non fanno presa sui suoi elettori. Allora De Magistris ha provato a usare toni meno rusticani, ma alla fine è stato costretto a alzare la posta in gioco proprio per gelosia e invidia tra i due. Come andrà a finire? Succedere a Di Pietro è molto difficile perché il partito si identifica con lui. Come per Berlusconi? Esatto, e infatti i due si somigliano parecchio, dice il sociologo Luciano Cavalli. Questo accostamento, cioè queste citazioni su Di Pietro, mi permettono di saltare al titolo di apertura del giornale a cui vi avevo lasciati, magari con un pizzico di curiosità, perché certo vedere sul titolo, sull'apertura del giornale di Vittorio Feltri, Fini come Di Pietro, certo siamo abituati agli attacchi del giornale a Fini, ma a Fini come Di Pietro certo è un titolo molto molto forte. Perché scrive così Vittorio Feltri? Dal patrimonio di Alleanza Nazionale sono spariti gli immobili, trasferiti a società parallele proprio come hanno fatto l'ex PM e i DS. E poi mette insieme un'altra cosa, cioè rimborsa i movimenti politici, lo Stato rimborsa i movimenti politici il quintuplo di quanto spendono, ne abbiamo parlato proprio a questi microfoni qualche giorno fa. Insomma, questa è l'accusa del giornale. Fini fa sparire le case come Tonino. È Gian Maria De Francesco che firma questo articolo a pagina 3. Gianfranco Fini come Di Pietro, Gianfranco Fini come Fassino. Non sono paradossi, ma è la realtà. La gestione degli immobili della vecchia Alleanza Nazionale, evidenzia il rendiconto 2008, assomiglia parecchio a quello dell'Italia dei Valori e dell'ultima fase dei DS. E cioè il trend, scrive il giornale, è quello di far confluire in società ad hoc il patrimonio immobiliare per poterlo gestire meglio. È quello che starebbe facendo l'ex Alleanza Nazionale con denaro e immobili che passeranno alla nuova fondazione di AN guidata dal finiano di ferro Donato La Morte, che ha prolungato il tesseramento a marzo 2010. Si tratta ovviamente di, ci sono anche tutti i conti di quelli che sono gli immobili, i soldi, quelli che farebbero appunto, sarebbero ora in procinto di confluire in una fondazione privata. Tanto che l'attacco è così frontale a Fini oggi da parte del giornale che anche Marcello Veneziani ci si mette del suo con un editoriale in prima pagina, più prettamente politico. Dice sostanzialmente Veneziani parla del sorpasso, cioè del possibile sorpasso della Lega alle prossime elezioni al Popolo della Libertà. Sarebbe una novità clamorosa e travolgente e sarebbe un oblò con vista sul dopo Berlusconi. Ovviamente, secondo Paolo Veneziani, secondo Marcello Veneziani, secondo il giornale, di chi è la colpa del fatto che la Lega potrebbe sorpassare il Popolo della Libertà? Di Fini, ovviamente. Perché? Perché la tesi di Veneziani è questa: prima Berlusconi era il centravanti, aveva due ali, Fini e Bossi, che si compensavano bene. Se la Lega tirava troppo verso il federalismo, AN bilanciava sul presidenzialismo. Se la Lega inclinava sul locale, AN recuperava sul nazionale. Se Bossi faceva troppo il ribelle selvatico, a Fini toccava il compito di rilanciare il senso dello Stato. Da quando AN non c'è più, eccola lì l'accusa, e da quando Fini non esprime più quei valori, la Lega non ha più contrappesi e il centrodestra non è più bilanciato. E dunque, se la Lega supererà il PDL, per il giornale il colpevole è già scritto. Intanto sulle riforme troviamo, voglio dare alcuni spunti della politica, proprio sì, insomma, delle riforme un po' di sentirne parlare non se ne può più, cioè giustamente qualcuno ha detto, in questo caso Bossi, si facciano oppure non si facciano. Berlusconi sulla stampa pensa a un appello al Senato. Qua trovo, diciamo, le notizie, le novità, per il resto i giornali sulla politica fanno un po' quelli che si chiamano i vari pastoni, insomma, con vari commenti. Però le novità che trovate sono, appunto, la stampa a Medeola Mattina dice che Berlusconi starebbe pensando, dopo un vertice da tenersi dopo l'Epifania, intervenire al Senato a fine gennaio con un discorso di alto profilo istituzionale e riformatore, del senso a dire le riforme si fanno ora oppure non si fanno più. Così come l'altro spunto interessante che trovate sulla politica è che Berlusconi, secondo Repubblica, secondo Carmelo Lopapa, starebbe pensando a nominare sottosegretario Daniela Santanchè. Starebbe pensando a Daniela Santanchè sottosegretario. Non è probabile che accada questo già al prossimo Consiglio dei Ministri, anche perché dice non è neanche detto che lo possa presiedere lo stesso Berlusconi, che dovrebbe rientrare a Roma l'11 o il 12, ma Berlusconi in queste ore non fa mistero di tenere in modo particolare proprio l'ingresso nel governo di Daniela Santanchè, scrive Carmelo Lopapa, convinto che abbia un suo potenziale elettorale. E poi a Daniela glielo devo, ha messo in chiaro coi suoi, ricordando la vicinanza dell'amica nei momenti più bui degli scandali della separazione dalla moglie. Questo per quel che riguarda la politica. Trovate anche molto di politica sulla vicenda di Craxi. Non passa giorno, visto che ci avviciniamo al decennale della sua morte, di notizie, interviste su Craxi. Oggi, vabbè, tiene ancora campo il fatto che ieri Stefania Craxi ha fatto mostrare sostanzialmente in mezz'ora Lucia Annunziata un'intervista inedita realizzata col padre, con Bettino Craxi, nel 97. Oggi tra le interviste vi segnalo Biagio Agnes, ex direttore generale della RAI, che a 81 anni racconta come in realtà, dice, Craxi mi chiamava pochissimo quando era in RAI, era lottizzata allora come adesso, noi lottizzavamo scientificamente, non era una cosa volgare, prendimi questo, sistemami questo amichetto, ma facevamo così, io e peraltro Zavoli, fa capire Sergio Zavoli. Dobbiamo nominare un direttore del TG1? Bene, dateci una rosa di 5 giornalisti bravi e poi a scegliere il più bravo ci pensiamo noi. Insomma, ma trovate anche Ugo Intini su altri giornali che parla di Craxi. Insomma, da qui al 17 gennaio ce ne saranno varie di interviste. Allora, ci fermiamo per il traffico, poi ripartiamo dall'economia e anche dal Sole 24 Ore. In primo piano. Vi ricordo che la politica è anche il cuore del nostro sondaggio. Che ne pensate della proposta di De Magistris? Mandiamo Berlusconi in esilio, lo mandiamo alle Cayman in un aereo di Stato con delle belle fanciulle con sua apicella e non, in cambio non avrà conseguenze giudiziarie. Condividete oppure no? Dovete votare su radio24.it o sulle 24ore.com. Voglio andare a commentare quello sui giornali, a leggere sui giornali quello che ieri ha detto il Santo Padre. Papa Benedetto XVI ha invitato a seguire all'Angelus di ieri solo Dio, non affidarsi a maghi ed economisti. Grazie a Dio, ha detto il Papa, la nostra speranza non fa conto su improbabili pronostici, nemmeno sulle previsioni economiche pur importanti. Insomma, su questa frase, come al solito, poi quando parla il Papa ci sono tanti commenti, anche con una sorta di miopia, perché il Papa non parla riferendosi all'Italia, ma parla al mondo cattolico. Però certo ci sono tanti commenti oggi su queste parole, vale a dire non affidarsi a maghi ed economisti. Per esempio Mario Sensini sul Corriere della Sera, una sorta di colloquio col ministro Tremonti: il nostro futuro non è un destino fisso, un progresso, un declino inevitabile, il nostro futuro non è un software, né un palinsesto, né un programma di computer, dipende solo da noi. Era stato il primo ad accostare gli economisti e i maghi ad astrologi al meeting di Rimini. E dunque, certo, Tremonti, scrive Mario Sensini, avrà gongolato ieri, musica per le orecchie, quello che ha detto per le sue orecchie, quello che ha detto probabilmente ieri il Papa. Chi fa calcoli e analisi sul passato, secondo Tremonti, fa un lavoro fondamentale perché legge e fa la storia della realtà. Poi però ci sono gli economisti politici che invece, dicono al tesoro, si producono in oroscopi e magie, nulla di più e di meno del mago Telma, Harry Potter e Mandrake. Nessuno al tesoro immagina i pogrom, ma di sicuro per Tremonti dietro c'è un fatto politico, perché questi, spiegano i suoi collaboratori, hanno la pretesa di fare politica, si fanno carico di quella mistica del determinismo che è il dover essere, diverso dall'essere, che è l'analisi dei dati. No, più che un colloquio con Tremonti, appunto con alcuni collaboratori, insomma, per cercare di capire qual è il pensiero di Tremonti. C'è anche un commento su questo in prima pagina di Repubblica di Edmondo Berselli. Il commento di Edmondo Berselli, che poi si dipana all'interno: il ministro, il pontefice e la ribellione alle previsioni. È abbastanza interessante questo commento. Scrive Berselli: forse nelle parole del pontefice c'è anche un tratto sottaciuto di ironia, dal momento che accomunare maghi ed economisti ha un sapore un po' sarcastico. E quindi potrebbe esserci una traccia di relativismo cattolico in cui le specifiche professionalità non sono affatto assolute. Anzi, la sapienza secolare della Chiesa induce a considerare lo sviluppo sociale come un processo difficile da cogliere, complicato, non riconducibile a modelli astratti. Maghi ed economisti. Ed ecco dunque Berselli che ricorda l'eco della polemica, appunto innescata a suo tempo da Tremonti, contro gli specialisti dell'economia, e che ieri Tremonti stesso non ha evitato di fare commenti, appunto, addirittura, scrive Berselli, al TG1. Poi Repubblica intervista due economisti, per appunto il professor Giacomo Vaciago, e invece no, non un economista ma un filosofo, un pensatore, Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, ma anche appunto filosofo e pensatore su questo. Tra l'altro, invece, per concludere l'intervista e proprio a dire che questo tema è molto molto commentato, intervista alla Stampa di Ettore Gotti Tedeschi, che è da poco tempo il presidente dello IOR, la Banca Vaticana, insegna etica della finanza all'Università Cattolica di Milano, e che dice sostanzialmente: sono falliti tutti i grandi pronostici sull'uomo, perché partivano da considerazioni di per sé erronee. L'economia è una tecnica avanzata e sofisticata, ma neutrale, per portare vantaggi all'uomo deve trovarlo disposto a considerarsi importante. Dunque i rilievi mossi da Benedetto XVI agli economisti sono fondati, dice Ettore Gotti Tedeschi. Riguardo alla vicenda del Papa, anche se laterale rispetto a quello che ha detto ieri, c'è la conferma che troviamo sul Messaggero e su il Corriere della Sera, che Benedetto XVI riceverà in Vaticano Susanna Maiolo, che è quella ragazza psicolabile che lo ha fatto cadere sostanzialmente alla messa della vigilia di Natale. E quanto ha fatto intendere il segretario personale del Papa, Monsignor Georg Genschwen, sostanzialmente è andato a trovarla il 31 dicembre, le ha consegnato un rosario di grana bianca come quelli che il pontefice offre alle sue ospiti alle udienze. Non significa questo un immediato perdono giudiziario, cioè il perdono del pontefice, ma non quello giudiziario. L'iter giudiziario andrà avanti, può darsi che si concluderà, fa sapere il Corriere, con una raccomandazione al ricovero assistito della giovane psicolabile nella stessa struttura sanitaria nella quale era già stata curata in Svizzera. A quel punto, prima di andare lì, potrebbe essere ricevuta appunto dal pontefice. Lasciamo queste vicende e andiamo appunto al Sole 24 Ore, che come al solito al lunedì propone alcuni temi interessanti per leggere il nostro paese. Mezza Italia sotto vincolo verde, questo è il titolo di apertura. Si parla di tutela del paesaggio. Innanzitutto i dati molto interessanti. Beh, sapete che metà del nostro territorio è sottoposto a vincoli paesaggistici, il 47% dell'Italia è protetto, questo almeno in teoria, insomma sappiamo che ci sono ecomostri, sappiamo che le tutele hanno funzionato solo in parte. Il record spetta al Trentino Alto Adige, che ha oltre il 90% del territorio sotto tutela, così come la Liguria. Fanalino di coda, il 19% del territorio, appena il 19% tutelato, è invece la Puglia, ma tutta la classifica la trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, anche perché da oggi ci sono delle novità. Vale a dire, sono entrate in vigore venerdì scorso, ma sostanzialmente con weekend da questo lunedì, tutti gli interventi sulle aree vincolate d'ora in poi, a partire dagli interventi edilizi, dovranno essere prima approvati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Prima il parere sostanzialmente veniva espresso sul progetto già approvato dal comune, mentre stavolta è diventato preliminare e vincolante. Se l'ufficio dei beni culturali dice di no, non si può andare avanti. Quindi questa è la novità importante dal punto di vista della tutela del paesaggio italiano. Ovviamente il Sole ricorda quelli che sono gli ecomostri ancora, a quelli abbattuti pochi, e quelli ancora da abbattere diversi, che sono ancora uno scempio per la tutela paesaggistica italiana. Però ricorda anche tutto quello che è appunto questa novità in vigore. Così come dal Sole 24 Ore voglio segnalare la classifica molto interessante dei record della TV dell'anno che è appena passato, le top 5 dei palinsesti del 2009, un'analisi che trovate a pagina 15 di Francesco Siliato. Qual è stata la rete più vista? Rai 1. Qual è stato il programma più visto dell'anno scorso? Il Festival di Sanremo. L'evento sportivo più visto? Italia-Irlanda di calcio. I telegiornali più visto? Il TG1. L'approfondimento in prime time più visto? Anno Zero. Ovviamente una puntata di Anno Zero. Così come i canali digitali. Il canale digitale più visto è Boeing. Il primo canale ricevibile solo in digitale terrestre, proprietà di Turner e Mediaset, dedicato ai bambini, gratuito, è il più seguito dei canali digitali. Beh, dati interessanti, li trovate insomma su queste classifiche, un po' di numeri, quanti hanno visto la TV, per esempio anche le TV locali, Telenorba è la TV locale, l'emittente locale più seguita in Puglia dunque, poi Telecapri, Telelombardia, Antenna Sicilia e poi 7 Gold, Tele Padova. Questi sono i dati con i quali voglio chiudere con questa segnalazione del Sole 24 Ore. Vi ricordo il sondaggio che potete votare su radio24.it o il sole24ore.com. Ci riferiamo alla proposta di Luigi De Magistris, onorevole eurodeputato dell'Italia dei Valori, che ha detto mandiamo Berlusconi in esilio e non avrà per questo conseguenze giudiziarie. Condividete, che ne pensate? De Magistris sarà nostro ospite alle 8:30, ne parleremo più tardi. Ora GR24.